Hola, hola, perché? Hola. Ma Bianco è un bel sola. Buonasera, Anche a lì, buonasera. Certo, andiamo dove andiamo. Non sei uscito, ho fatto un giro. Infatti, cattivo che ti stia saltando a comprendere i mazzoletti. Vabbè, a vedere la lirica non vi sei andato. A te? A vedere la lirica. Oh, cazzo. Ma ti pare che ho potuto a vedere la lirica io. Beh, non lo so chi. E un dì era la lirica. Piazza d'Italia. Caso Piazza d'Italia fa la yoga. Allora tu vuoi troppo voi. Cazzo, non lo so io. Allora, cazzo. Non lo so io, se va a Piazza della lirica. L'unico spettacolo che mi piace è la lirica. Andiamo dove andiamo. E tu a che sei stato? Ah, siamo a non piace. Ah, è visto, perché... No, alla fine non ho mai andato a vedere la lirica. Mai. Non è che mi piace, hai capito? Per cui preferisco rimanere a casa. Manca a me. Adesso mi sono rimasto in casa. Ci stai bene in casa, tranquillo, cazzo. Forse è stato un bel fresco, magari andare in luogo, ma cazzo, se ne casi, è un di altri. Se è stato fresco, c'è una brosa troppo. Infatti. Vediamo chi è. Dopo giorni. Sì, se mai per la vietta, però per caso a te. Io che mi intendo un po' carito, ma si sta bene. Sì, già sta entrando anche qua. Prima c'era la vetta accesa, poi l'ho spento, ho visto che c'era la vietta, è anche fresca, per cui siamo così, già sta entrando, là. Infatti, fate così. Andiamo bene, andiamo. Per forza andiamo bene. Quando sei in casa, stai bene. Che bello così voi. Certo. Oioioia. Non si è fatta una buona sareccia, va, stasera. Sorda. Come? Non si è diventato già che buona la sareccia. Mi si è tappata, E poi invece ti recupia tu, e senti bene, io ripeto, già lo sai che io sento un poco da una parte all'altra, per cui devo per forza mettermi le cuffie, specialmente quando c'è lei qua e quella che mi sono accesa, capito? Io un po' già ci sento. Un momento, qui c'è un altro. Mi si è baciato un po' Garedo di più. Che ci sento un pochino meno, però già ci sento. Io pure quando sto solo non me ne metto un cucchiaio e sento ugualmente. Magari metto il volume più alto e sento bene. E infatti ogni tanto entra e entra, ma voi abbassate, ma tutto quello che vorrà chi, allora mi viene la bacio. Ha ragione. No, io già sono con volume normale, quindi. Cosa? A un quarto ce l'ho il volume, per cui bacio le cuffie, capito? Sento benissimo, poi sento benissimo anche con le cuffie, capito? È più forte con le cuffie. Sì, no, è più forte, infatti, così. Vabbè. Già andava così. Se va andare bene. Va andare bene, fa tutta. Come andare da lo? Cazzo, sarebbe il colmo. Già va bene, sto. Se no, ce ne già bello. Cosa c'è? Cazzo, se vuoi già mamma, ma chi? sapevo, non c'è il caso là. Io sempre chiuso. Vado parlando sempre questo. Io sto usando sempre questo. Ormai, cazzo. C'è un altro nuovo, ma l'altro nuovo è dentro la scatola. Uso questo qua. Fai bene. Va benissimo questo, io voglio andare. Fatto un bel lavoro Antonello, a metterci qua parte della ricezione. E poi strano a partire questo finale della ricezione. Adesso come sia nuovo, la stessa cosa. Era solo quello lì, non c'aveva altro l'apparecchio. Oh, così è. Vabbè. Oh, lui lo sapeva cosa c'aveva. Ora abbiamo acceso, quando gli ho portato, l'abbiamo acceso e gli ho fatto sentire cosa faceva. E prima ha pensato che fosse l'altoparlante, ha distaccato l'altoparlante, l'ha messo l'altro. Era lo stesso, che non era, non ha pensato a cosa, a finale, perché ha scaldato il finale, no? Basta toccare, ha toccato questo, infatti era questo. Era cambiato, e per cui è come sia nuovo, la stessa cosa. Va benissimo, sento bene, tranquillo. Come sia nuovo. Infatti, si è cambiato il finale, era quello lì. Allora, il finale era. Allora, a partire, va bene, anche quando è nuovo, certo, può partire sempre qualcosa. Certo. Adesso non so, certo. Perché evidentemente, poi... questi apparecchi sono protetti, capito? Si può bruciare il fusibile, però l'apparecchio non si spegne, capito? Chiaro che se si brucia il fusibile l'apparecchio si spegne, però lo fa danno, ecco, lo fa danno l'apparecchio perché è protetto. Va bene, va benissimo così. Ma non posso funzionare che sta ancora per all'incera in giorni, dopo di capovi c'è poco lui, metto il nuovo e faccio girare il nuovo, poi ogni tanto ne metto uno. Certo, per far girare. Infatti girare, c'è brinca. Anche l'899, che quello ho più toccato, anche quello uno di questi giorni lo attacco, lo faccio funzionare almeno per una sera. Andiamo, fare che mi attirò, per cui non ho più problemi. Che c'è? Poi è l'ultimo che ho preso, anche quello che è un bombo, anche quello e basta, boh, non lo spendo più soldi. Infatti così già, così purtroppo noi li fai girare tu piano piano tutti quanti, poi sono tutte precise da 5.500 6.900, sono tutte precise, mi dico tutti precise, cambiano le marche, la marca cambia, però sono tutti precisi, gli stessi sistemi, gli stessi tanti, tutto più preciso, capito? Sì, no, infatti è così, tutti precisi sono. E allora, certo, a uno ha messo, mi sembra, 5, 6, il numero 5, fatti il conto, a che cosa va? Metterci su 55, boh, e basta come il primo, no? Certo, come il primo, avevo la 5.005, certo. E invece quell'altro che ho preso ultimamente, sono 4 il numero 5. Certo, se ne mancava uno. Ma se cazzo, un commercio, cazzo. Cazzo, c'è bene, e poi a pensare, sono tutti uguali. Bisaccia, dov'è la distribuzione di Bisaccia a Balli? Però non manca niente, insomma, che c'hanno tutto. Anche il vuoto funziona, capito? Quindi che puoi immaginare, sono tutti precisi, le stesse caratteristiche, gli stessi movimenti e basta. Vabbè, ogni tanto ne cambi uno, ne metti l'altro. Per fare girare, capito? Per far girare qui, che da voi, certo che non so questo digitale che fine avrà, non so come c'è quelli di prima, capito? Come con il 3005. 40 di cani da ciappa è sempre funzionale, anzi c'è una ricezione bestiale, gatta. Fate così, purtroppo piano piano fai funzionare tutti, caso si legga un oggi, un domani, un lascio domani, sì, e si la da andare, esatto. Ma salute e poi mi scostino, cazzo, bastava uno, e anche troppo, povero, per ci sono là. Fate così. Purtroppo ce ne facciamo così. Allora, c'è quello che si sa tu, che l'ha toccato più? Non l'ha toccato più quello lì. Già va avanti lì. È piazzato, però non la chiedo mai. Vuol dire che non ti piace? Mi piace più questo, perché c'è il display azzurro, anche se quello là c'ha più cose, ma non mi piace quell'altro pezzo tuo, capito? Mi piace averlo, però ogni tanto così, senza chiacchierare, lo accendo 10 minuti. E tu lo vedi, se si mette l'uovo, cucina l'uovo. La stessa cosa, piazza. Infatti è tappato Romino. Faccio un coso sopra, è tappato. Scaldalo per il papà, la faccia apposta per scaldare. Quando scalda funzionano bene. Capito? Sto parecchio così, capito? Invece questi quando scaldano molto, evidentemente non devono scaldare molto, questi che sono scaldati. Sì, non devono scaldare molto. Oh, questo che ho io, non caldiban nulla, beh, è freddo, non caldiban nulla. Ma anche questo, per esempio, se io non ti parlo, non scaldo, sempre ingazzato. Parlando è chiaro che in trasmissione scalda, capito? Il presidente l'ho toccato e appena scaldo, ma non più di tanto. Sì, vabbè, lo scaldo come quell'altro, no? Scaldo, ma poco di più. Però, questa, almeno io so che gli apparecchi devo anche scaldare perché c'è corrente e inclusi gli strumenti che ci sono dentro hanno una certa caloria per poter funzionare, per cui posso attuare a una certa temperatura, capito? E per cui, un'oretta, ma hai scaldo appena, là, ma appena però. Sì, no, è come te chiedo. E io ho vedo le buone tappadella e ci cucini l'uovo. E allora, invece quell'altro grande, invece, quell'ultimo che avevo preso, ricordi quello grande? Quello non scalda, quello non scalda nulla, puoi stare chiacchierando ore, non scalda. No, è quello da base, capito? Non scalda. Anche quello che ho io devi aspettare che scaldi. Però no. Io ogni tanto accendo per ascoltare e coso, perché non bisogna farlo funzionare ogni tanto. Io lo accendo, certi giorni, certe mattine magari lo accendo, anche se mi allontano lo lascio acceso un'oretta, dopo che arrivo magari lo spengo, capito? Però non senza parlare, ecco. Perché tanto è una ragione, non è che mi piace più il tempo, mi piace ascoltare quando sono vicino, se c'è gente, ma senza parlare, capito? Per cui sono figlio di quei tempi, certo, appena sentivo qualcuno mi piaceva chiacchierare, ma adesso sono io. Già basta, sto parlando quanto, è anche troppo. Certo, andiamo bene, andiamo, bobo. Allora, non siamo chiacchierati. È inutile avere tanta attrezzatura da voi, parli solo con un apparecchio. Aspetta un attimino, Gian Maria. Eia, sono qua. Eia. Ecco dietro, oia, carità. Ma tutti stanno lamentando, non entra nessuno, come qui e là. Non mi fa, ragazzi, non entra nessuno. Noi che mi piace di siete e chi ne ho voglia di chiacchierare entro e parlo, ma non è diventata tanto, per cui certe volte ascolto e non entro, capito? Cosa vuoi fare? Vedasse che sono tutti in giro, quindi non entra altro nessuno. Infatti, già sono le 77 persone, per cui non hanno... Io ripeto, non è che mi fa, prima l'avevo fatto, cazzo, non dormivo per accendere in baracchina a chiacchierare, ma vaga, cazzo, da che giorno, durante il giorno che io sono in casa, che non si riesce a fare, lo accendo, è disposto, a chi non tanto lo venisse, mi sposto e lo lascio acceso. Magari dopo mezz'oretta figlio e lo spengo, capito? Infatti così, una mezz'oretta. Tanto, ma non è entrato nessuno, andava bene. E allora, quando basta così la sera, quindi sto, quando è il 31, si è tra 4 e l'altro, 23, 10 minuti, e sono finito, perché che ne ha più voglia, non ce ne ha più voglia, per cui certo, nemmeno giovani ci sono a chiacchierare, capito? Perché anche loro giovani hanno altre cose più importanti del baracchino da fare, e per cui il baracchino non lo cercano nemmeno. Vabbè, sono in giro al mare, in spiaggia, a fare felicità passeggiata, quindi... No, non ho voglia di entrarci. Prima a me non mi mancava, a qualsiasi posto che andavo il baracchino era sempre in macchina, sempre a disposizione. Ma anche il campeggio, quando facevo campeggio avevo sempre il baracchino a disposizione, bellissimo. Era carino prima, e per cui adesso, le cose vengono e passano, vai. Come tutte le cose. Infatti è così. Prima era così, va invece. L'ultimo telefonino. Quella ha superato tutti gli ostacoli. Tutti gli ostacoli. Perché con quello puoi fare tutto. Tutto dalla lasetta, per cui è una cosa molto utile, per cui va bene così. Ma tu, se tu li vedi sulla strada, tutti con il telefono in mano fa vedere, tutti, manni minori, e ha superato tutti gli ostacoli il telefono. Che macchina, no? Come tende con il telefonino in mano? Fatto per una signora Claudia, c'è nel Rubonti. Camminando piano piano con il telefonino da Nazi. Ma pigliate se è cutta. Cosa si è cutto? Sono affarata, è da redo per lui, detto, signora, se non molla il telefonino lì. Se non molla il telefonino, no, no, non ce l'ha proprio, no, non ce l'ha qua tutta così. Con un telefonino, boom, e si è cutta. E i vigili, ecco, c'è la signora, col telefonino si è sbattuta. Ah, cosa si è sbattuta qua? Ha domandato la patente, libretto. €1.500 di multa. E si dovrà pagare tutti i danni. E più dovrà pagare il danno che ha fatto al muro. Ma è così, so, ma io lo vedo qua. Qua no, c'è il palo di porta a casa, c'è il palo della luce, no? Ma sta guardando, io mi siedo lì davanti sulla piena, è così, ma ripeto, no, a capo a terra, a cambiare con il telefono, va a allora pensa a figli che vede un palo da là, anche a cacciare che si chiude il tuo, appesi però, e poi in macchina, io ti vedo bene, ma nel minore con il telefono a cambiare niente. E fammi vedere con un telefono. Io non so commenti facile che sì. È proibito il telefonino davanti a parlare. Io non lo so, boh. Ma come devi lasciare guidarmi con un telefonino? Ah, ma non sai che te ne perché no che scende sì, con un telefonino in mano. Un bel risotto. Un bel cambiamento e fammi vedere con il telefonino, il cambiamento forse è muro, quindi un bel in macchina, certo, certo che se trova la guarda, certo che già su mette la multa lì, però peggio un paese, io quando si cura il telefono ciò che in macchina mi fermo e fa vedo, ma se no non mi... Non risocco il telefonino. Poi c'è questo. Se fa un incidente, te ne cavano la patente, te ne cavano. Fa 2 anni, te ne cavano. Ecco cosa è. Altra cosa, mesi te ne cavano il burro, la patente, te lasciano la... Lasci la macchina qua, mandi qualcuno a ritirarla. Ti dici. Di dubbi che l'ho fatta adesso. Però la gente purtroppo pensa in quel momento non pensa a nulla, capito? Per cui lo fanno, insomma, non uno solo ma parecchia gente lo fa, come dici, capito? Telefono camminando e anche in curva lì è saltando con una mano solo. Là che arriva, se non che non fate un incidente. Che l'andava a dopo i vedi cosa hanno c'ha fuori. Ok, c'è un break, mi avanti. Chi sei? Buonasera, non ho capito, chi sei? Romeo 1, e da dove voglio lì? Località Cesaraccia. Mi fa granieta. Boh, non ho capito bene. Questo è il bottone la fina, sulla strada del sorso. Ma hai capito? Romeo, detto, hai capito che siamo qua e siamo vicini tutti e due. Quindi a me arrivi se ho un segnale di 9 e io sono vicino alla bretella, è per quello se la tiri un pochino forse ti ascolto più forte, ti ascolto ma sono basso ma già ti ascolto, non so spostare ma sollevarla anche, e infatti così ha fatto Gio Maria. Io glielo ho detto però non capisco dove si trova. Mettere la raffina sulla strada di sorso. Ah, ma cosa la fine sulla strada di sorso? Ah, ho capito, sì, ho capito. Comunque già l'ho sento ugualmente. Comunque a me mi arriva il segnale 7, per cui la radio è 4, però... Tu sei più vicino a lui, dai. No, a me a volte mi arriva 9, a volte mi arriva 7. Sì, la radio è un po' bassa. Robert, ma in macchina sì. Io ti sento più basso, perché ancora magari più vicino a te. capito? Io ti sento più basso, però riesco a capirti abbastanza bene, capito? E perché non si sa? Alfabeta. Il vecchio alfabeta. Iccat. Niente meno, cazzo. Ecco dove vai, dopo tanti anni che avevo mollato e oggi ti risento. Fa piacere. Vuol dire che respiriamo ancora. Da tanto, Da tanto, cazzo. Già 2 anni, cazzo. E come hai deciso di riprendere? Dopo tanti anni, niente meno, tu. Fate conto. Vecchi di frequenza, dai. Dove siamo vecchi di frequenza, Già è un anno che non entrava più, certo. Non un anno fa, Anche noi siamo di quelli vecchi, Perché siamo anche noi di quelli vecchi. E il mio nominativo era Squalo. Cosa c'è dietro a me? Squalo era il mio. Anch'io, anch'io che mi ricordi più di tanto, Anch'io, che molto tempo è passato, molto tempo. Siamo Umberto, mi sembra che abitava. Esatto, cazzo, è come non mi ricordo, cazzo, prendeva più l'auto. E poi c'è stato Adriano lì, e sono state 3 o 4, però già me lo ricordo, capito? Vecchio da balena. È registrato. E anche quello vecchio, non ho sentito più, ma già si trova ancora quello lì o no? Buonasera Maria da Sassa, un sciopero, un saluto. Ciao Giovanni, ciao Tore, ciao anche a te, non ti ho riconosciuto. Ok, avanti Giovanni, solo un saluto perché sono appena salito al mare, dunque devo fare anche a Luccia. Ho acceso e vi ho sentito. Avanti Giovanni. Però male ti ho sentito. La cosa che stasera sono da quelle parti, e sono trovato il campanello per farti vedere, per vederti solo e andarmene. Comunque, hai fatto bene, sei entrato Maria, buonasera, ben sentito, spero tutto bene in famiglia, sì? Tutto bene Giovanni, tutto bene. Guarda, sto uscendo con la canna a pesca e sto preparando un sistema che dopo ne parliamo in verticale, sto preparando, diciamo, là. E adesso sto usando questa canna a pesca appoggiata in terra, ma vedo che sto uscendo, vuol dire che già va bene il provvisorio. Bene, io so per un saluto, Tony riprendi, la voce d'amica l'ho riconosciuto, però non mi ricordo proprio, non so se lui si ricorda di me, io ero Ronzino Cavallo a Don Chisciotte. Tony riprendi. Bene, signor Mari, buonasera, mi sentito dopo di tanto, andava bene. Avanti Romeo. Come sto combinando, è pensione, sono a 30 anni più. Ogni tanto così per accendere che facciamo 2 chiacchiere e abbassare il tempo, niente. Cioè da riposo siamo capitani là. Ok. Oh, cari San Marino, bello pippante, come si sentiva. Sto sentivo bello, sto pippante, tranquillo, con la canna da pesca, sto. Ehi, signor Maria, ancora visi. Sto scrivendo, sto scrivendo che devo andare a fare la doccia e così via. Sono due sentite, solo per un saluto. Già ci sentiamo questi giorni, dai, ciao Tore, ciao Gio Maria, saluto anche a Romeo e saluto anche a Cautone per me QRT, dai, riprendi tu. Ci risentiamo Maria, alle prossime, ok. Buona doccia. Andà bene, avanti Gio Maria. Scusa Gio Maria, l'amico Romeo sta uscendo quasi, 9.20 mi sta arrivando, 9.20. Meglio così, dai. Ok, riprendi Gio Maria e QRT per me. Ok, ciao Maria, ci sentiamo, dai. Buon proseguimento, va bene la radio, sei tranquillo. D'accordo, va bene, ci sono, già sono occupato quando passo davanti. Ciao. Ciao Gio Maria, ciao ciao. Ciao signor Maria. Andiamo dove andiamo? Vabbè. Stavo dicendo, se ne metta più blu. Riusciamo a respirare bene o male. Vi siete sottomodulati, vi siete sottomodulati, Romeo riprendi sto chiudendo, ciao ciao. E forse mi sono sottopromosso col toro, non mi sta attaccato il telefono. Vabbè, sì sì, ma no. Capisco il toro. Ah, va bene così. Io Gianmarì mi stacco perché mi devo prendere pastiglie. Ci risentiamo domani. Saluto a Romeo se non è entrato. Ok, ci risentiamo domani. Ciao Gianmarì, stammi bene. Ciao a Romeo, ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ci sentiamo, dai, grazie, la chiacchierata, dai. Buon proseguimento. Ciao, sono in calma, ciao. Non so se si è rientrato, ma vabbè sì sì, e non è stato al telefono, ciao tu, prima che l'ascolto 10 minuti un po' chiuso anch'io. Ok, ciao Gianmarì. Vabbè, se si l'ascolto io sto qui dentro, allora, ci sentiamo. Comunque se ci vuoi ascoltare siamo dalle 7 e poi sempre su 23, tutte le sere.